Italia in controluce. Buongiorno, sono le 13:34 minuti e 15 secondi. Daniele Biacchessi su Radio 24 che vi conduce nel mondo della cronaca con Italia in controluce. Da oggi iniziamo un viaggio nelle regioni che vanno alle elezioni, non un'inchiesta sulle chiacchiere, sulle promesse elettorali, ma finalmente forse parliamo dei fatti, cioè cercheremo di prendere un problema che secondo noi può rappresentare meglio di altri il tema forte del confronto politico-amministrativo. Paolo Piacenza parte oggi dal Piemonte. Procede con prudenza, ma procede. La Torino-Lione, la linea ferroviaria ad alta capacità lungo il corridoio europeo 5, a oltre 4 anni dagli scontri di Venaus, è arrivata ufficialmente agli indirizzi operativi per il progetto preliminare. Venerdì 29 gennaio l'osservatorio guidato da Mario Virano ha dato il suo via libera al documento che fissa i punti inamovibili del tracciato. La connessione con il tunnel internazionale di 57 km, la stazione internazionale a Susa, la piattaforma logistica Orbassano. Al voto, è vero, mancavano i 23 comuni dissenzienti e la comunità montana guidata dal democratico ribelle Sandro Plano. Ma intanto le scadenze dell'Unione Europea sono state rispettate e la macchina è partita, dice Virano. I progettisti di LTF e di RFI hanno le indicazioni per lavorare al progetto preliminare. In parallelo parte lo studio di impatto ambientale, in parallelo parte anche la valutazione costi-benefici e la progettazione delle ricadute dei benefici sui territori. Quindi è un'esperienza abbastanza inedita, abbiamo 5 mesi di lavoro a ridosso dei progettisti. L'osservatorio dunque continua a lavorare, ma senza chiudere le porte. Se qualcuno ritiene, come peraltro ci ha già comunicato in forme un po' particolari, di entrare in corso d'opera a dare il suo contributo, le porte sono sempre aperte. I nodi ancora da sciogliere in realtà non sono pochi, a partire da quello sul passaggio della nuova linea attraverso l'area di Torino. Tuttavia, a 2 mesi dal voto per le regionali in Piemonte, con la presidente uscente Mercedes Bresso avanti di soli 2 punti nei sondaggi sullo sfidante Roberto Cota, lo scontro intorno alla TAV diventa politico. Ecco perché, proprio alla vigilia della famosa scadenza europea, tra Torino e la Valsusa è andata in scena una sfida tra manifestazioni. Sul piano dei numeri l'hanno vinta i NoTav, che sabato 23 gennaio hanno portato in strada in Valsusa 20.000 persone secondo la polizia, 40.000 secondo gli organizzatori. Un leader storico della protesta come Alberto Perino rilancia l'altolà a qualsiasi trattativa. Io credo che questa sia una data storica. Storica perché non c'è solo la Val di Susa che resiste, c'è tutta Europa che resiste. Siamo gente che non accetta di essere sfruttata, che non accetta di essere presa per i fondelli. A Torino è tutto piovattato. Anche perché la partita che si gioca qui è per vincere la palma di chi è più favorevole al supertreno che dovrebbe fare del Piemonte il crocevia dell'Europa del Sud. Così succede che il candidato del centrodestra, il leghista Cota, per denunciare le contraddizioni del centrosinistra sulla TAV, decida di imporre ai rappresentanti del PDL un dietrofronte sulla partecipazione alla manifestazione bipartisan a favore della Torino-Lione. Ma per industriali e sindacati, commercianti e costruttori l'ordine non può valere. E così domenica 24 gennaio il centrosinistra piemontese si trova sul palco del Lingotto insieme a tutte le maggiori organizzazioni regionali, dalla CGIL alla Confcommercio. Sergio Chiamparino. L'iniziativa era partita con un appello, come si dice, trasversale. Io credo debba continuare a mantenere quelle caratteristiche, poi chi non c'è se ne assume le sue responsabilità. Per noi non cambia di una virgola il carattere della manifestazione, che è una manifestazione che vuole semplicemente ribadire e far sentire la voce il più larga possibile, che confermi che quest'opera è fondamentale per il futuro di Torino e del Piemonte. Alla sera, alla conferenza stampa del centrodestra, un super moderato come il senatore del PDL Enzo Ghigo lascia trapelare l'irritazione. La manifestazione Notami Val di Susa, c'erano 10 sindaci del Partito Democratico. Vogliamo semplicemente mettere in evidenza che a sinistra c'è un'operazione preelettorale che ha come obiettivo quello di coprire, e ora che in questa città, in questa regione, si finisca con questi atteggiamenti ipocriti di una parte dell'imprenditoria, di una parte dei media, che comunque con questa sinistra sono sempre lì che flirtano e non hanno mai invece il coraggio di dire palesemente che è ora di piantarla lì. Nei giorni successivi si capisce che questa partita l'ha vinta sicuramente Chiamparino e forse anche un po' Mercedes Bresso. La presidente regionale, lontana da Chiamparino sul futuro del centrosinistra, sulla tavola pensa come lui. Alla guida di uno schieramento elettorale che va da Rifondazione all'UDC, Bresso cavalca la battaglia a favore della Torino-Lione. Marione proprio per rafforzare la sua credibilità, per dimostrare che la sinistra non la condizionerà. Oltretutto sulle infrastrutture è in sella un cavallo vincente, visto che la sua giunta ha liberalizzato il trasporto pubblico su gomma e ferrovia, lanciando i primi bandi di gara in Italia per il servizio sulle linee ferroviarie regionali. La TAV però è stata solo la prima puntata della battaglia per le regionali del Piemonte. Sullo sfondo resta il nodo più urgente, la crisi industriale, ma è troppo complesso e forse nessuno si azzarderà ad affrontarlo davvero. Ad essere decisiva anche stavolta, anche in Piemonte, sarà soprattutto la campagna elettorale. Quando quella vera sarà iniziata, ce ne accorgeremo tutti. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Italia in controluce. Oggi è partito il nuovo processo contro Francesco Rando, responsabile della società Egiovi che gestisce la discarica di Malagrotte, di Giuseppe Torti, responsabile dell'impianto di recupero rifiuti e P-Sistemi di Colleferro, e di Andrea Lolli, responsabile dell'impianto di recupero rifiuti Impianti Mobile Service. Questi tre manager sono accusati a vario titolo di aver smaltito rifiuti pericolosi a Malagrotta e negli impianti di Colleferro. Il racconto di Maria Chiara Grandis. Nemmeno il 2010 vedrà la chiusura di Malagrotta, la discarica più grande d'Europa. 230 ettari tra la via Aurelia e Fiumicino, che ogni giorno ricevono 4.500 tonnellate di rifiuti. Una discarica esaurita da anni, ma che continua ad accogliere la monnezza della capitale dal 1970. A Malagrotta l'odore è insopportabile e fra le ruspe i gabbiani sembrano avvoltoi. Da anni gli abitanti della Valle Galeria si battono per la chiusura della discarica o almeno chiedono alle istituzioni maggiore controllo dell'area. Nella cittadella dei rifiuti alle porte di Roma ci sono anche una raffineria, cave e un gassificatore. Intorno vivono 50.000 persone che chiedono ascolto. Maurizio Melandri del Comitato Malagrotta. Quello che è stato rilevato è una forte incidenza di patologie legate a difetti di respiratori e a un'incidenza maggiore di patologie legate alla tiroide. Queste purtroppo, anche se presentate, sono state bollate come non attendibili in quanto non ufficiali. La discarica di Malagrotta è gestita dal Consorzio Laziale dei Rifiuti. Presidente è l'avvocato Manlio Cerroni. Quando voglio prendere una boccata d'aria buona vado a Malagrotta, dice. Se da un lato non si può dire sia proprio così, dall'altro l'Ar Palazzo non rileva dati particolarmente allarmanti in zona. Lo spiega il commissario straordinario Corrado Carruba. Indubbiamente l'esistenza della discarica è un'esistenza importante, rilevante, ma vi sono anche purtroppo in quell'area vi sono parecchie altre situazioni. Sull'area noi abbiamo fatto una campagna straordinaria di monitoraggio dell'aria nella zona di Malagrotta. I dati che noi abbiamo dicono che l'aria che si respira nella zona di Malagrotta è paragonabile esattamente a quella che respirano mediamente i cittadini romani. A giugno sono iniziati i lavori di ricopertura finale della discarica di Malagrotta. Fra 4 o 5 anni l'operazione sarà a metà. L'obiettivo resta la chiusura del sito nel più breve tempo possibile, spiega Andrea De Priamo, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma. Ma se chiude questa discarica, bisogna individuare nuovi siti che possano accogliere i rifiuti della capitale. La Regione Lazio non è stata d'accordo sulla proposta del Comune di Roma di realizzare un sito per una nuova discarica al di fuori dei confini comunali. Quindi ad oggi bisognerà vedere la futura giunta regionale se vorrà rivedere e riorganizzare, ma in tempi molto brevi, un piano dei rifiuti. Per il momento la Regione Lazio non replica e per gli abitanti della Valle Galeria resta un'unica consolazione: l'istituzione di un osservatorio permanente per il monitoraggio ambientale di Malagrotta. C'è un finanziamento di 3 milioni di euro più altri 2 milioni che erano stati destinati allo sgravio ICI per gli abitanti di quel quadrante, che la provincia doveva dare al comune, a noi qui al comune di Roma, per appunto i piani di risanamento, iniziative di tutela da questo punto di vista. Ad oggi questo non è ancora avvenuto, la prima cosa è quella di chiedere quei finanziamenti e partire quindi con un piano che sarà partecipato con i cittadini, quindi noi dobbiamo poi mettere tutte le informazioni in rete, non possiamo affidarci solo ai monitoraggi che fanno i privati, perché è ovvio che questi possono essere di parte. Speriamo di aver segnato comunque un capitolo nuovo in un tema che credo sia stato troppo sottovalutato negli anni passati. Intanto si apre oggi il processo per Francesco Rando, Giuseppe Torti e Andrea Lolli, responsabili della discarica di Malagrotte e degli impianti di Colleferro in provincia di Roma. L'accusa è smaltimento di rifiuti pericolosi senza autorizzazione. Sono le 13, 44 minuti e 22 secondi ed era la seconda edizione di Italia in controluce. In studio vi ha parlato Daniele Biacchessi. Dal lunedì al venerdì, lo ricordiamo, decine di reportage, di servizi, interviste, temi. Tutte le puntate le potete riascoltare su www.radio24.it. Poi abbiamo anche il gruppo di Facebook, vi potete iscrivere, poi è anche il luogo dove realizzare domande, naturalmente con i nostri esperti e i nostri giornalisti. Radio 24 Italia in controluce, questo è il titolo del gruppo di Facebook, oppure inviare via mail a controluce@radio24.it. A risentirci domani alle 6:30.